Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Basta questo Elton John. Allora mo perché, cioè, ci sta Elton John, è uno spot per gli omosessuali. Allora quando ci stanno i VU, che è una marchetta per l'Inps, non ho capito. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Sir Elton John! But then again, no. Ma come si fa a restare in sintonia con il pubblico così e non deluderlo mai? Perché ancora mi piace suonare, soprattutto dal vivo, al pubblico dal vivo. Mi piace suonare più che mai. My gift is my song, this one's for you. Se ti guardi indietro e vedi quel ragazzo che salutava la strada di mattoni gialli, no? Goodbye Yellow Brick Road. Com'è Elton adesso? That was a long time ago. Era un sacco di tempo fa. I didn't think the journey would last this long. Non pensavo che questo viaggio sarebbe durato così tanto. Oggi però mi diverto moltissimo, non avrei mai pensato di diventare papà e di avere la vita che ho avuto. God has been very good to me. Thank you. E questo davvero è stato una cosa molto positiva. Grazie. I'd buy a big house where we both could live. Cioè, tutto qui. No, aspetta, Lorenzo, cerca bene, ci sarà qualche... Avrà portato i bimbi sul palco, no? Ci sarà stato il marito, no? Ma cerca bene qualche file, io non l'ho visto. Tutte le volte mi riprometto, guardo Sanremo, quest'anno guardo Sanremo, ieri ho guardato Inception. Ma... è tutto qui. Cioè, è arrivato, ha detto: sono felice di aver avuto una vita molto lunga e di essere diventato papà. Ah, mamma mia, tutto sto casino per niente. How wonderful life is while you're in the world. Cioè, manco una mezza polemicuccia di Gasparri, un tweet di Salvini, niente. Vabbè, dai, va bene così. Sono le 6:33 minuti, Sanremo è iniziata, cari italiani, so che per questo siete più sereni, più tranquilli, la vita può procedere. Saluto già i nostri amici che ci seguono dall'estero, saluti da, buongiorno da Helsinki, ci scrive Dante. Fa freddo a Helsinki? Non lo so. Vabbè. Che devi dire? Diciamo buongiorno intanto, Lorenzo Nespoli è lì in redazione, al di là del vetro insieme a Peter Bescapè in regia. Dunque, meno male, un inizio soft a Sanremo. Mi raccomando, votate tutti Enrico Ruggeri che deve stravincere. Io sono riuscito a vedere solo Laura Pausini. Ho girato un pezzettino, scanalato. Che piangevi? Ah, piangeva, sì. Piangeva? No, era un pochino... Piangeva un po', sembrava un po' allappata con la lingua e un po' commossa. No, pensavo, avevo equivocato con Peter Bescapè. Avevo pensato che dicesse piangevo. Peter Bescapè aveva visto la Pausini per commozione. Avrà portato lei il figlio, piangeva per questo. Siamo qui, cari amici. Siamo qui a 24 mattino. Possiamo subito convocare, tipo, non so, il direttore di Vanity Fair, il nostro Luca Dini. Buongiorno, ciao a tutti. Anche questa era di Sanremo, questa sì. Ma chi è che era più? Come si chiama? Era Silvia Salemi. Silvia Salemi, giusto. Che fine ha fatto Silvia Salemi? Ma insomma, ogni tanto la si vede, va in TV ogni tanto. Ah sì? Mamma mia. Sì, da Carlo Conti, uno dei suoi 66 programmi. Ah, ecco, appunto, compare da Carlo Conti. Vabbè, tu hai visto Sanremo, ovviamente, direttore. Sì. Come sì, no? Sì, non ci posso credere che tu abbia guardato in sette, veramente. Sì, era lì da un po'. È incorreggibile. Ha detto devo rivederlo, peraltro rivederlo, perché l'avevo visto al cinema. Voglio rivederlo. Ero lì a casa da solo, ho detto, ma sai che c'è? Mi guardo Inception e poi basta. Cioè, e neanche l'ho visto tutto. Poi sono andato a dormire alle 10:15, non lo so. E lì ho visto la Pausini nel letto. Così, ecco, ho raccontato tutto nella mia serata, non c'è più nulla da dire. E basta, finita così. Ma è il momento di convocare la radio diventa la nostra Paola Bainai. Buongiorno, buongiorno, ho appena finito tutta questa data di lavoro in radio ed eccomi qui fresca come una rosa. Eccoli, e come se si sente la nostra Paola Saluzzi. Buongiorno Dir, buongiorno Lino, eccoci. Hai visto Sanremo anche tu? Ho visto Sanremo anche tu. Ma... Sir Elton John si è comportato da Sir Elton John. Non posso manco raccontare. Erano due cose splendide, il suo sorriso e la sua giacca. La giacca. Gli avrei strappato in un'altra. Meravigliosa. Cioè, non c'è neanche mezza polemicuccia qui, non ci possiamo attaccare a nulla, Paola, niente. No, anche perché ha parlato anche del suo impegno, come dire... umanitario, sociale, in una maniera talmente aggraziata, lo fa, attenzione, lo fa nel senso che è un signore che fa del proprio portafoglio ottimo uso, e giustamente ha detto non occorre però essere estremamente ricchi, cioè riportava tutto in scala, cioè tutti possiamo fare qualcosa per gli altri, insomma, l'ha detto in una maniera così... piena di garbo niente. Quindi sicuro, cioè Luca, tu sei sicuro che non so Gasparri non abbia twittato nulla, Salvini non abbia detto pagherà il canone? No, credo che l'abbiano legato poi. Era lì con le dita, dai di qualcosa di qualsiasi cosa che io sono pronto qui a twittare, niente. L'hanno legato con le mani dentro dietro la sedia, sicuramente. Niente. Invece ha fatto due magnifici retweet, anzi tweet, e poi retweetato a volontà, Monsignor Ravasi. Ah, Monsignor Ravasi. La canzone di Noemi, la borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro. Ma che ne sapete voi di quanto pesano le nostre borse? Sappiamo che sono un po' confuse, sono un po'... contengono tante cose, questo sì. Bene, Notoriamente. Però la polemica noi la dobbiamo scovare sempre, polemica simpatica. E allora, se nessuno ha twittato contro Elton John, se nessuno ha nulla da dire del suo intervento, c'è qualcuno però che ha avuto qualcosa da dire sulla sua presenza. Caro Luca Dini, cara Paola Saluzzi, è tornato padre Livio Fanzaga. Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, se gentilmente non ci querela per mandare in onda stralci della sua voce, perché si può fare, eccolo qui. Poi stasera arriva Elton John a Sanremo per convincere gli italiani che, insomma, capito? E allora, cosa dobbiamo dire, cari amici? Noi ci metteranno in croce, non lo so io cosa faranno. Ad ogni modo siamo pronti al martirio, siamo pronti alla morte, l'Italia camò. No, non male, padre Livio, la morte. In un afflato patriottico, siamo pronti, ci metteranno in croce, ma no, padre Livio, no, ma per carità, ma nessuno metterà in croce nessuno, sono passati quei tempi fortunatamente, no? Nessuno martirizzerà nessuno. No. Davvero Radio Moria? Radio Moria, eccolo lì. Parla sempre di morte. Ma sai che per i cristiani, insomma, ma perché ridi? Sì, però non è proprio. Cioè, è bella anche la vita. È meraviglioso. ribadiamo, l'uomo più British che esista, sì, molto più dei British, però ogni tanto Luca Dini, Radio Moria, sì sì, vabbè vabbè, però vabbè, niente niente, sentiamolo ancora, c'è un altro cavallo di battaglia oltre alla morte, il diavolo. Però il vero nemico è il diavolo, il quale sta sperando un attacco, vedo la Madonna, sta sperando un attacco contro la famiglia per distruggerla, e dice: vedete come Satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù. Tanto devo farlo sentire a mia figlia, che continua a chiamarlo Satana, e invece, perché legge Geppo, dire il nome al contrario, legge Geppo e dice Satana, no, è Satana, Satana. Vabbè, niente, la vicenda Sanremo è così, mi dovete, visto che non l'ho visto, dovete dirmi qualcos'altro ai nostri ascoltatori di Sanremo. Cosa ti ha colpito di Sanremo, Luca, la cosa che più ti ha colpito, dai, chi vincerà? Guarda, anzi, fai il pronostico, chi vincerà? Non li ho ancora sentiti, ma credo Elio. Il vostro Ruggeri è bravissimo. Eccolo lì. Ruggeri, noi ti chiamo Ruggeri. E gli stadio bravissimi. I vecchi sono più giovani dei giovani. Eccolo lì, come sempre. Noemi, cos'è scandalosamente? Diciamo bocciata prima serata. Ah, bocciata Noemi. Tu Paola, cioè, la ripescheranno. Ecco, la ripescheranno. È lo scandalo. Ah, no, non sapevo. Ecco, lo scandalo a Sanremo. Tu Paola. No, lo scandalo è il televoto. Basta televoto. Torniamo. Hanno votato le ragazzine di amici e quindi Noemi è stata bocciata. Tu Paola che dici? No, io aspettiamo. Aspettiamo. Non me la sento di dire cose al primo turno. Vabbè. Ci buttiamo sul pronostico quando sono rimasti in due, mi sembra giusto. Ma cosa dici, Elino? No, scusate, che io sono un pochino sotto sopra questa mattina, perché ho letto una notizia sui giornali. Effettivamente, io, guarda, non ho niente contro la persona che sto per citare, però la notizia, fatico a riprendermi, ma è stato fatto il nome da parte di Giorgia Meloni di chi potrebbe essere la candidata sindaca a Roma. Sapete che c'era questo nuovo nome che girava così, il nome è stato fatto. Fratelli d'Italia propone per il centrodestra, udite, candidata sindaco a Roma, Rita Dalla Chiesa. Ora, sì, qualcuno ha già detto sì, assessore, avremmo fatto Santi Licheri, ma non c'è più, sono partite. Ora, io voglio bene a Rita Dalla Chiesa, tutto quello che ha fatto in TV, alla sua vita, al suo percorso, e la storia della famiglia Dalla Chiesa. Ma perché Rita Dalla Chiesa dovrebbe fare bene il sindaco di Roma? Chiedo così, Rita Dalla Chiesa. Ma non, cioè, che è un po' come quando volevano candidare Paolo Del Debbio e vogliono candidare a Milano. Cioè, ma il sindaco è una cosa diversa, è un lavoro diverso. Un po' come quando volevano candidare Marino. Sì. Sì, quello Ignazio, si sta riferendo a Ignazio. Sì, a Ignazio, ecco. Vabbè, però lui, dai, adesso Ignazio Marino a un certo punto ha fatto il senatore, cioè ha deciso di fare il politico, no? Marita Dalla Chiesa che fa la TV, ma perché? Paola, dici qualcosa tu. Ma io l'ho vista stamattina attendo in studio. Chi? Cioè, Rita Dalla Chiesa? L'ha incontrata? Capire perché lei presenterà le sue motivazioni. Ho perché capito. Un cittadino che fa altro nella vita e non fa politica decida di esporsi quantomeno, sì, no? Sì. Al ruolo di futuro sindaco di una città che... auguri a chi se la carica in spalla a Roma, perché fai sindaco di Roma, ecco, è una cosa complicata. Vediamo. Sì, certo, però insomma, non lo so, sono tutte queste candidature come... Ma nel frattempo qua si avanzano altre candidature da parte del signor Nicola Salerni, chi è? Che dice: tornerò a vedere Sanremo quando lo condurrete voi tre, cioè Sottoscritta, qui scrive Luca Dini e Alino Milan. Bellissimo. No, vabbè, io mando subito davanti Paola Saluzzi, perché non mi reggerebbero le ginocchia. No, farei tu e Luca Dini sareste, guarda, una cosa i valletti, dai. Ma no, io e Luca Dini faremo i valletti, appunto, oppure ci mettiamo come quelle del Muppet Show nel pubblico a fare le battutacce, a fare le battutine. Voi due vecchietti del Muppet Show siete fuori. Non siete ancora dentro l'età, però hai citato il Bappettoso. Ecco, adesso ho scatenato tra l'altro un'altra cosa, perché dicendo che mia figlia legge Geppo, già in tre mi scrivono: ma dove lo trovi Geppo? Ma lo pubblicano ancora Geppo? No, ma tranquilli, ho trovato semplicemente un vecchio Geppo a casa mia e l'ho dato a mia figlia. Non è che adesso pubblicano Geppo, gente già che si catapultava in edicola a dire datemi Geppo, sono tornato. Questo ci dà un'idea, però. Questo ci dà un'idea di come il paese guarda sempre avanti. No, di un business, dai. È di un business, effettivamente. Sì. Ma cosa ne dite di Donald Trump? Cosa ne diciamo di Donald Trump? Allora, secondo me Luca Dini ne può dire tutto il peggio possibile. Però guarda che Luca Dini avevi detto che forse potrebbe vincere. Tu che conosci anche i meccanismi. No, può vincere la nomination. La nomination, certo. Vincerà, sì. Però già di suo diciamo che è una cosa che è un po', no? Scandalosa. Però. È scandalosa, ma cioè, voglio dire, un elettorato di destra americano, l'elettorato no? Luca lo trova. Ma no, insomma, è un elettorato che è arrabbiato, che non sa quello che fa e se ne pentirà amaramente, secondo me. Però. Ma può diventare anche presidente, oltre a vincere la nomination, che poi quello. Beh, oddio, devo dire, se dall'altra parte viene candidato il pur degnissimo Bernie Sanders, una possibilità Trump ce l'ha. Cioè dici contro Sanders potrebbe anche farcela. Secondo me sì, ma questo poi lo staremo a vedere. Si vota quest'anno, ricordiamolo. Ma io devo andare alle informazioni sul traffico, poi rientriamo con Luca Dini, Paola Saluzzi. Vogliamo parlare un po' anche di quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, un po' di casini, soldi, questa storia dei 150.000 euro di penale a chi si candida. In realtà loro dicono basta i cambi di casacca in politica, e su questo hanno sacrosanta ragione. Certo, bisogna capire se il modo per evitarli è quello di minacciare una multa. Ovunque tu sei, ovunque tu andrai, davanti il traffico troverai. L'abbreviazione dell'Unione Europea in italiano, UE, in napoletano, UE. Signore, ho sentito per radio che torna a galla un professor Marino, il chirurgo di Genova, che non ha saputo operare nella città di Roma. Ha fallito, torna a dirne a casa, professore, avanza all'operatorio, senta a me, non fa scena da figure e merda. Ciao Alessandro, cosa ne pensi dei 90 deputati siciliani che non arrivano a fine mese? Dobbiamo aiutarli, non credi? Ciao Mila, sentimi, volevo sapere una cosa, ma com'è che in tutte le trasmissioni di Radio 24 salutate sempre e comunque sto piede Peter nel caffè, come cavolo si chiama, ma chi è quello che mi paga lo stipendio? No, non ci paga lo stipendio, è il nostro mitico alpino, è lì, guarda che è lì, che mi dice ma che lo stipendio ti pago. Gli alpini non si toccano, eh? È il nostro regista, Nescafè, Peter Nescafè, è fantastico. Peter Nescafè, esatto. ma come? Esatto. Il bombardino di Peter Nescafè. Allora, prima... Bespresso. prima però... Attenzione, ma cosa ha mangiato stamattina a colazione? Sì, così è una colazione così. Così? Allora, prima di chiedervi questa cosa del Movimento 5 Stelle, dovete avere le solite palette da 0 a 10 per dare un bel voto a una persona che canta. Questo signore si chiama Ezio Capri, l'audio non è proprio professionale stile Sanremo, ma eccolo qua. Mi slobbavi, solo del fiore ho speso una fortuna, ma tu chissà se l'hai guardati mai. Beh, beh, imita il califfo. Vabbè, questa è quella che l'accompagna. Sta imitando il califfo? Il califfo, il califfo, sì. Dieci? Califfa. Eh? Ma 10 a questo signore. Ma 10? Ma 10? Ma 10? Ma infatti, Luca. Sì, sì, 10. Senti, senti. Bravo, wow. Senti, senti. Io mi innamoravo sempre più. Vabbè, ma è un grande, è un grande. Allora, il signor Ezio Capri, sapete chi è? È un dipendente ATAC che si metteva in malattia e andava a cantare. Questo è il vero califfo, eh. Barba fatta con maggiore cura. E andava a cantare. Lui aveva, lo so che è brutto dirlo a quest'ora, certificati di diarrea. Aveva questo, però invece a Capodanno, a San Valentino, e andava. Ecco perché ha quella voce lì un po' così, differente. Andava ad arrotondare così. È stato ovviamente denunciato per truffa. È stato assolto dal giudice, perché il giudice ha stabilito che, insomma, basta che uno si faccia trovare alle visite aziendali, alle visite quelle fiscali, se, come si chiamano le visite, ti arriva il medico e poi puoi fare quello che vuoi. Vabbè. E quindi lui andava così a cantare. Si te beccavo me cambiavi voce. Si te beccavo e cambiavi voce. Si te becca, t'hanno beccato, però va bene. Il silenzio. No. La diarrea la fa venire giù. Ecco il giudice, infatti, abbastanza. Comunque no, non ho tempo per chiedervi questa storia del 5 Stelle, perché ci sono troppe cose, troppa carne al fuoco. Certo, devo dire che sono rimasto turbato non solo dalla candidatura di Rita Dalla Chiesa. Oggi sono arrivato e ho preso Vanity Fair. Sono rimasto turbato anche dalla copertina di Vanity Fair, abbastanza. Io lo dico. La vuoi descrivere tu, caro Luca? Vabbè, c'è Cindy Crawford e fin qui uno dice, vabbè, c'è Cindy Crawford. A 22 anni, sì. E indossa uno slippino. Basta, Peter Bescamè dice fa vedere, eccola qua, te la faccio vedere, si vede anche da lì da 3 metri. Scusa Paola, è momento ormonale qua. No, vi ascolto. Ti sei innervosita tantissimo. No, sapete cosa faccio? Aggiungo, quindi calo la mia carta. Ho passato un'intera giornata insieme a Cindy Crawford anni fa a Milano. Gomito a gomito a chiacchierare, la seguivo per tutto il giorno a Milano e un sacco di cose potrei dirvi ma non vi dirò. Attenzione. Non lo so, forse è l'appello del fiorentino di settimana scorsa. Che aveva detto ho comprato validi, com'era, più huli e meno reclam, però aiuto. No, si scherza. È una foto molto elegante, per niente volgare. È vero, questo lo confermo. E c'è dentro tutto un servizio sulla vita di Cindy Crawford. Vabbè, ma insomma, ecco, diciamo, che compie 50 anni, certo. Però infatti quando l'ho visto ho detto però 50 anni come si è mantenuta, e invece no, insomma, è la foto di quando ne aveva 22. Ma come si è mantenuta? Ma perché dobbiamo stare dentro il frigorifero? No, come si è mantenuta in forma? Ma insomma, 50 anni così sarebbe stato clamoroso, insomma, è una bellissima donna adesso, ma capisci? Cioè, perché quando si arriva a 50 anni si è bellissime donne, ma insomma, ciao. Non lo so se ci sentiamo il prossimo mercoledì. Arrivederci. Non lo so se condurremo più Sanremo. Vedi, ecco come va a finire. Mostriciattoli. Senti, mostriciattolo. Vabbè. Tu cosa fai invece alle 15 su Sky? Ci occupiamo di unioni civili a volontà, e continuiamo ad occuparci, come dobbiamo e dovremo fare, temo a lungo, di Giulio Regeni. Dico temo a lungo perché si cerca la verità. Sì. È una verità che salti fuori, non sia di comodo, non sia nata da un... Ma adesso diciamo che è andata così. È andata così. Questo non restituisce. Questo, Giulio, questo la sua è vero. Famiglia e i suoi amici, però bisogna, si deve continuare a parlarne. Almeno per sapere, appunto, come dici tu, non una verità. Guardare così negli occhi chi sia stato. Che ci viene venduta, esatto. Se ha uno sguardo, chi è stato. Allora, io vi ringrazio, appunto, Vanity Fair lo trovate in edicola, con una straordinaria cinquantenne Cindy Crawford e Paola Saluzzi, spero. E Alino Milan e Luca Dini, che dicono 50 anni, come si è mantenuta? Beh, l'ho detto io, mi assumo tutte le responsabilità. No, Luca non ha detto nulla, non lo dico io. Il colpevole sono io, Grazie, alla prossima! Oh, mi facevi dire che non ci stavi. Sì, te beccavo me, cambiavi voce. Io mi innamoravo sempre più. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, amici miei debosciatelli, vi voglio tanto bene, vi mando un abbraccio, debosciatelli, vedete, passa i vezzeggiativi, così, insomma, se no dite che vi do dei debosciati e poi vi arrabbiate. Se siete arrivati adesso, siete come al solito alle vostre colazioni interminabili. Forza, forza, forza! C'è da leggere i giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite il presidente della commissione vigilanza Rai, Fico, alle 8:40. Perché si parla di Rai, ma non solo, dopo l'intervista al deputato del PD Anzaldi ieri sul Corriere, ma insomma c'è Sanremo, ma poi si parla anche delle polemiche del Movimento 5 Stelle, questo codice fatto firmare a chi si candida. E insomma, parleremo anche un po' di vitalizi dei parlamentari, avremo l'ospite l'avvocato Paniz, ve lo ricordate? Paniz. Comunque, i giornali ora. In questo mercoledì 10 febbraio, qualche titolo: la crisi scuote borse e tassi, così il Sole 24 Ore è il titolo più gettonato, questo anche per il Corriere della Sera, borse vince ancora la paura. Per la Stampa, banche italiane la grande paura, in 40 giorni bruciati 40 miliardi. E così il Messaggero, borse allarme, banche centrali. Chi apre in modo diverso è la Repubblica con le unioni, voto verità, Renzi, dico no all'utero in affitto. Il Giornale invece, scandalo Equitalia, in 15 anni 217 miliardi di cartelle false. Questo è il titolo di prima pagina. Anche Avvenire, sulle unioni civili, il PD va alla conta. Mentre Il Fatto Quotidiano, il PD, la guerra tra i big renziani per 300.000 tessere in bianco. Questi alcuni dei titoli, altri li vedremo, i titoli di prima pagina, però voglio subito tuffarmi nella lettura degli articoli, così oggi do più notizie che riesco a voi. Allora, mi ha colpito ciò che Dario Di Vico racconta, pagina 23 del Corriere della Sera, riguarda Bologna, dove grazie a un'improvvida scelta dei vigili di convocare un'assemblea sabato scorso durante l'attesissimo derby dell'Appennino di calcio Bologna-Fiorentina, il comune guidato da Merola ha tirato fuori i tabulati e ha scoperto che nel solo 2015 i dipendenti municipali avevano convocato 158 assemblee retribuite in orario di lavoro, praticamente una ogni due giorni lavorativi, con la conseguente interruzione dei più elementari servizi di pubblica utilità. I motivi di cotanta necessità di discutere dell'impressionante sequenza di adunate sono sostanzialmente due: l'elevata conflittualità dei dipendenti del Comune di Bologna e B, la frammentazione della rappresentanza sindacale che, oltre a CGIL e CISL e UIL, vede nutrita presenza di USB, COBAS, ADI. Ciascuna di queste organizzazioni, in virtù di una nota posta in calce a un accordo sindacale del 96, può convocare le proprie assemblee retribuite, anche se non ha firmato il contratto che regola le prestazioni di lavoro. In sostanza, scrive Di Vico, può tirare il sasso nascondendo sempre la mano, non assumendosi mai la responsabilità di trattare e mediare. Ecco, questa cifra è davvero impressionante e fa pensare. Il record a Bologna, dipendenti del comune in assemblea 158 volte in un anno. Tra l'altro, riguarda Bologna, anche se il tema è quello della sicurezza, è un altro fronte, ma una notizia che sempre sul Corriere mi ha incuriosito, la leggo ad altre notizie che ho trovato. Bologna, nel quartiere della Bolognina, quello della storica svolta dell'89. Ebbene, nel quartiere rosso di Bologna spuntano le ronde. Pagina 20, sempre del Corriere. Nella città del politicamente corretto sta per cadere l'ultimo tabù. A Bologna sdoganano le ronde, un retaggio della destra, viste da molti come fumo degli occhi, ora considerate una risposta plausibile alla microcriminalità. Succede appunto alla Bolognina, dove già il comune ha aumentato, ha preso misure straordinarie, vigili in strada al mattino, più pattuglie di polizia per cercare di contrastare spaccio, furti e spaccate nei negozi, ma i negozianti hanno deciso che non bastava e si sono organizzati in un gruppo di controllo notturno, pettorine, segni di riconoscimento, un tragitto operativo, dalle 23 alle 5 in auto a piedi, pronti a segnalare a polizia e carabinieri pusher e balordi che si aggirano nel quartiere. Ecco, Gianluca Rotondi racconta questa svolta. Sicuramente la città magari restia ad accettare culturalmente quello che viene considerato un retaggio appunto della destra, le ronde. Però perché cito questa notizia? Perché nella stessa pagina, così come in altre pagine di altri giornali, lo leggo sul Giornale, lo leggo su Libero, lo leggo su Repubblica, fa discutere ancora la vicenda del tabaccaio Birolo, Franco Birolo, che ha sparato e ha sventato una rapina, ucciso il rapinatore, è stato condannato per eccesso di legittima difesa a circa 3 anni di carcere, questo in primo grado. Fa discutere perché a suo sostegno arrivano le parole del vescovo di Chioggia. Il vescovo di Chioggia che sul ladro ucciso difende il tabaccaio. Quel risarcimento dato dal giudice che ha condannato Birolo a risarcire la famiglia della vittima è come un furto. Le parole esatte scritte in una rivista dal vescovo di Chioggia, che si chiama Monsignor Adriano Tessarollo, sono queste: 325.000 euro di risarcimento, fanno più o meno 1.000 euro al mese per 27 anni. Mi permetta un'ironia, signora giudice. Quello che non era riuscito a rubare il ladro da vivo, glielo ha dato il giudice, completando il furto alla famiglia. Un bel vitalizio ottenuto per i suoi familiari con l'incidente accadutogli nel suo lavoro di ladro. Parole che giustamente anche su alcuni giornali dice, ma parla come un sindaco della Lega. Il Corriere della Sera va a sentirlo: monsignore, lei parla come un sindaco della Lega. Per carità, è solo che io ascolto il comune sentire della gente, così è nata questa riflessione, dice il parroco, che tra l'altro, racconta il Corriere, si narra, una volta stese con un diretto un malintenzionato sorpreso a rubare in canonica. Vabbè, quindi un parroco di quelli, insomma, arcigni, diciamo così. Questo signor Birolo, prosegue il monsignore di Chioggia, non è nemmeno mio parrocchiano, ma ho letto la sua vicenda, come ho letto la vicenda del benzinaio Stacchio, quella dell'altro col ladro che durante un furto è stato morso da un cane e fa causa al padrone del cane. Possibile che chi commetta un reato si senta in diritto di arrivare a tanto? E insomma, anche se il Vangelo porge l'altra guancia, dice... Risponde Monsignore: le sacre scritture le conosco bene, vi dico che vanno contestualizzate. Quel tabaccaio non voleva far del male, ha avuto una reazione emotiva e non sarà contento di avere ammazzato, ma dovrà pagare una tassa di 1.000 euro al mese per 27 anni per essersi difeso. Una condanna che mette sotto sopra la famiglia del derubato e dà un vitalizio alla famiglia del ladro. Il giornale, anche il giornale, il vescovo scomunica la toga che condannò il tabaccaio giustiziere. E anche Libero, il vescovo sta col tabaccaio. Questa notizia proprio nel giorno in cui, tra l'altro, è stato accusato di tentato omicidio un ex poliziotto, si chiama Bruno Poeti, lo racconta anche Repubblica a pagina 20, perché ha sparato a un ladro che aveva tentato di entrare in un suo podere a Grosseto. Sì, certo, gli ha sparato da 20 metri. Ora, bisogna chiarire che la legittima difesa, poi lo so già, mi attaccherete, mi criticherete, ma io voglio dire, questa è la legge, cambiatela se volete e poi ne parleremo e parleremo d'altro. Ma sparare a 20 metri, magari con uno che scappa, non è considerata per la legge legittima difesa. Poi fate un po' quello che volete e possiamo essere d'accordo al fatto di cambiarla la legge, ma fin tanto che è questa, questo è. Comunque, visto che mi dite sempre racconti, brutte storie, ma quello i giornali fanno per la maggior parte delle volte, però ogni tanto no. E allora vi segnalo certamente la storia di Tony Bonadeo. Lo racconta La Stampa con Paola Guabello in prima pagina. Chi è Tony Bonadeo? È un istruttore di sci, ma un po' particolare, perché questo istruttore di sci insegna ad allievi sordi e sulle montagne del Bielmonte c'è un maestro di sci che insegna lo spazzaneve a una classe di giovani sordi. Come fai a comunicare con una persona che non ti sente quando urli fermati, seguimi, svolta a sinistra? E il fatto, come scriveva Oliver Sacks, è che è terribilmente facile dare per scontato il linguaggio, ma questo maestro di sci con divisa verde e blu ce l'ha fatta andare oltre. Si chiama Tony Bonadeo, una vita passata a insegnare, è il direttore della scuola Montemarca a Bielmonte, dove le piste sono l'ideale per i principianti. E allora racconta: se allontani le mani e poi le avvicini, imitando il movimento degli sci, è facile spiegare come si fa lo spazzaneve. Anche le curve le indichi col palmo, facendo girare verso sinistra o destra. Certo, è ben diverso se devi comunicare fermati, mettendo un pugno sopra l'altro, o spiegare di stare tranquilli, muovendo tre dita sul fianco, su e giù. In quel caso diventa indispensabile agire con qualcuno che traduca per te con la lingua dei segni. E comunque è una bellissima storia che vi segnalo, continua a pagina 16 della Stampa, nel biellese, la scuola che insegna ai sordi lo slalom della disabilità, sciare nel silenzio con il linguaggio dei segni. E invece questa è una storia canora, ma Sanremo non c'entra. È in prima pagina di Libero, possiamo anche sentirlo, è in prima pagina di Libero, è il premio Mani sul volante, ma questo è un volante d'autobus soprattutto. Sentite qui. Sembra Califano, il califfo. Imita Califano, ovviamente. Non questa, non lei. Lui che canta. Il lui che canta come Califano, una voce straordinaria, tra l'altro. Si chiama Enzo Capri. Ezio Capri. Senti che voce. Io mi innamoravo sempre più. Ezio Capri, autista dell'ATAC che si metteva in malattia per andare a cantare al night. Ne parla Libero, autista in malattia, canta al night e il giudice lo assolve, assolto. Si metteva in malattia dicendo che aveva la diarrea. Lo so, dispiace parlare di queste cose, ma chissà se le coppiette sedute innamorate mano nella mano al ristorante Nuovo Gusto, da dove è tratto questo audio, al quartiere Magliana, si erano accorte di quello che stava accadendo attorno a loro. Si metteva il Capodanno, il San Valentino, autista dell'ATAC, i trasporti. Un giorno è arrivata la Guardia di Finanza. Ma com'è? Ma lei è in malattia? Com'è che canta lì sul night? Cioè, come scrive Libero, invece di trovarlo seduto sul water, lo trovano seduto su uno sgabello del night a cantare. Viene accusato di truffa, ma il giudice dice Nessuno contesta la falsità dei certificati medici e soprattutto se uno si trova all'interno del domicilio per l'eventuale controllo dell'autorità sanitaria ha adempiuto ai suoi doveri di malato. Dopodiché può fare quello che vuoi, c'hai la diarrea, vai a cantare Califano, nessun problema. Io mi innamoravo sempre più. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il giornalista che mi fa più stare della giornata. Ciao da Anastasia. Ma straordinaria Anastasia! Però non impararla mai quella parola, eh? Giornalista non si dice, no, scherzo. Anastasia, un abbraccione, ma che bella che sei, evviva. Allora, ti faccio un po' arrabbiare, ecco, arrabbiare Anastasia. Allora, saluto anche tutti quelli che mi segnalano che ci sono anche in Veneto, per esempio, scuole dove si insegna a sciare invece ai ciechi. Me l'hanno segnalato vari ascoltatori via sms, no, ma infatti è una bella storia questa raccontata dalla stampa. In questo caso in provincia di Biella si insegna a sciare ai sordi. Allora le unioni civili oggi si comincia, e tra l'altro devo dire negli articoli in cui ci sono sempre bracci di ferro, polemiche, però finalmente un articolo che racconta, secondo me in maniera puntuale, Alessandra Arachi lo fa sul Corriere della Sera, cosa succede dal punto di vista parlamentare. Perché mi chiedevo, vabbè, ma oggi si vota, ma quando si finisce di votare questa legge? Intanto Alessandra Arachi lo spiega bene. Si comincia a votare oggi, ma non si può proprio sapere quando si va a finire. Perché? Ci sarà subito una battaglia, si inizia alle 16.30 a Palazzo Madama, in mattinata l'aula è impegnata per la celebrazione delle foibe, oggi ricordiamo 10 febbraio. La prima cosa che il presidente Grasso al Senato dovrà fare sarà sciogliere la riserva sul primo voto segreto. Il primo voto è quello per il non passaggio al voto della legge. Voi dite, ma che si sono ammattiti? No, è che c'è un emendamento, o meglio un articolo, l'articolo 96 del Senato, a cui si sono appellati Gaetano Quagliariello, Roberto Calderoli e Lucio Malan, per far tornare la legge in commissione e di fatto far saltare la legge. E 74 senatori hanno chiesto di votare col voto segreto subito questa cosa. Capite che se passa questo regolamento, questa norma, la legge subito salta, torna in commissione. E vogliono, Calderoli dice, il voto segreto. Sperano che nel voto segreto qualcuno tiri qualche brutto scherzo alla maggioranza. Se viene superato questo scoglio, si inizia con gli emendamenti. E poi gli emendamenti, lì c'è un giallo, perché non sono ancora stati ritirati gli circa 5.000 emendamenti della Lega. E quindi allora potrebbero usare dall'altra parte, dal PD, l'emendamento Super Canguro per far saltare e bypassare tutti gli emendamenti. Insomma, si comincia a votare oggi, ma ci sono tante incognite. Alessandra Arachi spiega bene la cronaca parlamentare di quello che succederà. Pagina 12 del Corriere della Sera. Questo per le unioni civili. C'è da dire che l'altro tema che regge molto è la questione della multa che il Movimento 5 Stelle prevede con questo decalogo che è finito sulla stampa per chi si candida e tradisce in qualche modo l'ideale del movimento. Multa da 150.000 euro. Le polemiche ieri si sono fronteggiate dal PD al Movimento 5 Stelle all'urlo di fascisti. No, fascisti siete voi. Perché il PD dice ora ci vuole una legge per regolamentare i partiti. Mentre al Movimento 5 Stelle difendono a spada tratta questo provvedimento. Anche ieri in conferenza stampa Alessandro Di Battista racconta Repubblica con Annalisa Cuzzocrea a pagina 12, prende la parola e dice il codice di comportamento che abbiamo scritto per chi si candida a Roma è un motivo di orgoglio. Nella capitale porteremo avanti la politica del pugno duro e lo faremo a cominciare da noi. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle raccoglie una sponda abbastanza insospettabile, perché chi si esprime a favore di questa scelta è il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, che dice: della politica del Movimento 5 Stelle appoggiamo ben poco, scrive Belpietro nel suo editoriale, condividiamo poco, nulla di Beppe Grillo, ma c'è questa idea dei pentastellati che non dispiace affatto, è quella di multare i Volta Gabbana. A Roma come a Torino i grillini vorrebbero introdurre la sanzione salata per impedire i cambi di casacca. Apriti cielo! Nel PD la proposta ha subito suscitato enorme scandalo. Ma, dice Belpietro e scrive, uno entra nel Parlamento col PDL ed esce con il nuovo centrodestra, uno si candida con Scelta Civica e si iscrive al PD, uno sta con Grillo e poi passa a Verdini. In totale, nel 2013 a oggi, sono quasi 350 gli onorevoli che hanno fatto il salto della quaglia, ossia uno su tre. Ed ecco allora che Belpietro scrive sul Libero, con la multa e Volta Gabbana si tutelano gli elettori. Il dibattito ovviamente è aperto, c'è anche sull'Unità l'intervista a un avvocato, si chiama Venerando Monello, che è un militante del circolo PD di Via dei Giubbonari a Roma, è presidente della European Lawyers Association e sentite cosa dice: sono pronto a impugnare davanti al TAR tutte le candidature di chi firma quel codice. E quindi ho deciso di impugnare la presentazione delle candidature di coloro che firmeranno il decalogo per le amministrative di Roma, perché la Costituzione prevede l'assenza di vincolo di mandato. E dunque questo avvocato è pronto anche a fare questo. Ma c'è a proposito delle amministrative un nome. È un nome che mi ha colpito molto. Mi ha colpito molto da questo. No, lo dico dopo il nome. Prima il momento di Mauro Meazza. Mauro, non è Mauro Meazza che si candida, buongiorno. Lo dico. Però c'è un nome, c'è un nome. Ma dillo questo nome. No, è una donna. No. Va bene. Manteniamo allora, un po' di suspense. Facciamo questo promo, vengo a dire poi il nome. Poi il nome. Dopo il traffico. Lo dici dopo il traffico? Sì. Va bene, allora guarda, intanto io ti voglio dire, leggi molto attentamente sull'andamento delle borse, che come sai non è proprio dei più brillanti, per dir così, in questi giorni. Leggi molto avidamente le pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. Leggi anche, tra l'altro, l'editoriale di Moria Longo che ti spiega, l'analisi di Moria Longo, scusami, che ti spiega come alcuni di questi casi siano anche dati da una serie di, diciamo, automatismi, meccanismi quasi in automatico delle borse. È impossibile riassumere in così poche parole malamente quello che viene spiegato lì, ma se leggi molte cose ti saranno chiare, caro Alessandro. Bene. Ah, persino a te, guarda, mi viene da dire. A proposito di risparmio, no, ma così te la butto lì, piccolo risarcimento di tanti lanci che hanno fatti magari con una certa leggerezza da parte tua. Ti voglio dire, giornatona, perché per il risparmio l'ABI, cioè la sistema bancaria, e la Consob hanno sostanzialmente aderito alla proposta fatta da Sole 24 Ore di semplificare i prospetti dei prodotti finanziari. È vero. Che non sono proprio la cosa più chiara e leggibile del mondo, neanche per chi se ne occupa. Allora, Sole 24 Ore diverse settimane fa, ha lanciato una proposta di semplificare questi prospetti, un po' come i bugiardini dei medicinali. Ecco, adesso c'è una presa d'impegno da parte delle due associazioni. Speriamo che questo avvenga rapidamente. Resto ancora in tema di risparmio, caro Alessandro. So che tu con i tuoi due urini ti sentirai un po' smarrito, ma io non sono poi così convinto che il tuo patrimonio sia veramente così al minimo. Ti dico che oggi, stasera più precisamente, è atteso un Consiglio dei Ministri dove verrà varato uno, ma forse diventeranno due, decreti legge proprio in materia di banche, di credito cooperativo, GAX. Ti ricordi le GAX? Le GAX, come no? Va bene, sono le garanzie, lo ridico, sono le garanzie per i crediti deteriorati, sai, quel meccanismo che abbiamo a lungo negoziato con la Commissione UE, ecco, sarà contenuto in questo decreto legge. E altre misure proprio sul, tra l'altro anche sulla parte fallimentare, il recupero dei crediti. Provi tutto questo nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, non ti devi neanche stancare ad andare più avanti. Però, se tu avessi tenacia, vista l'ora, mi sembra giusto dirti che nella sezione imprese territori, tra le altre cose ti raccontiamo che è cambiato il caffè. Ah. Tu che parli sempre delle tassine del caffè, sappi che il caffè, diciamo, per la moca è diminuito come vendita, invece c'è una forte crescita delle capsule, del caffè in capsule, ma ti spieghiamo tutto nelle pagine di imprese territori. Oh, e poi, adesso che abbiamo parlato di risparmi, di caffè, eccetera, è il momento dei reati. Ad esempio, tu sai che c'è stata, che è andata in vigore la depenalizzazione, ti avevamo già avvisato. Sì. Ne abbiamo già parlato su Sole 24 Ore. Oggi trovi in allegato la guida, 16 pagine, su questa depenalizzazione. Tra l'altro, segnalo, visto il momento, che c'è anche prevista la depenalizzazione per la guida senza patente. Ma poi trovi anche all'interno di Norme e Tributi, dove ci sono una serie di notizie molto interessanti, una Cassazione che ha detto che in fondo coltivare una piantina di canapa indiana potrebbe non essere reato, manca l'ostensività. Ve lo segnalo nelle pagine di Norme e Tributi. Va bene. Tutto ciò premesso, più tardi darà il nome. Tra poco, tra pochissimo. C'è un nome che mi ha messo un po'... Vabbè. È un nome che ti ha turbato. Mi ha turbato un po', sì. Va bene, allora io ti lascio al tuo turbamento e per tutti gli altri invece, traffico! Alessandro Milan, lo scasso cucchione dell'informazione. Va bene tutto. Allora, il nome che mi turba da questa mattina, qualcuno me l'ha già scritto, ma l'ho detto anche alle 6.30, ma qualcuno l'ha intuito, è Rita Dalla Chiesa. Perché, udite, sarebbe il candidato proposto, cioè è il candidato proposto da Giorgia Meloni per il centrodestra a sindaco di Roma. Candidata sindaca di Roma per il centrodestra, Giorgia Meloni propone Rita Dalla Chiesa. Io non ricevo la copia del Tempo, ma mi dicono, me lo dice su Twitter Fausto Sorino, mi fido ciecamente, che oggi c'è il titolo sul Tempo con una foto di Rita Dalla Chiesa e il titolo «Ma questi stanno forum». No, non lo so, ma massimo rispetto per la carriera giornalistica e per la storia personale di Rita Dalla Chiesa, ma sono un po' sorpreso, sono un po' colpito, ecco. Ma come se volete, anche come quando si insisteva per Paolo Del Debbio a Milano, cioè, ma che ci azzecca, direbbe uno più famoso di me, col sindaco. Comunque Rita Dalla Chiesa è il nome che trovate su tutti i giornali, è la carta proposta da Giorgia Meloni per il centrodestra. Rita Dalla Chiesa che dice deciderò con Berlusconi, questo a Repubblica. Sul Corriere dice ero con Renzi ma potrei dire di sì, anche questo, prima devo vedere Berlusconi. Anche sul Giorno fa un'intervista a pagina 11, eccolo qui, intervistata da Piero Degli Antoni, Rita Dalla Chiesa, sono sorpresa anch'io, e effettivamente anche lei, non ho deciso assolutamente nulla, ho solo preso atto della proposta, capisco benissimo la sua sorpresa, dice Rita Dalla Chiesa al giornalista. Lascio agli altri spiegare se e perché questa proposta mi è stata fatta. Di più non posso dire, non ho ancora visto nessuno, non ho incontrato nessuno. Questa candidatura scompiglia anche me, risponde Rita Dalla Chiesa, l'assicuro, non posso davvero aggiungere altro. Quindi la prima sorpresa, come vedete, non è solo mia la sorpresa, è sorpresa anche Rita Dalla Chiesa stessa. Comunque, ci sarebbe anche un altro nome, che è quello invece di Simonetta Matone, magistrato, e anche questo sarebbe stato avanzato dal centrodestra da Giorgia Meloni come candidato sindaco a Roma. Staremo a vedere. Vi segnalo, a proposito di nomine, Il Fatto Quotidiano oggi mette in prima pagina un richiamo, poi a pagina 2 la storia, Sparkle all'uomo di Lotti che rifece la casa a Renzi. Il titolo non chiarisce tantissimo, ma a pagina 2 Francesco Bonazzi racconta da casa Renzi alle informazioni che scottano. È la storia di Andrea Bacci. Andrea Bacci, imprenditore che ristrutturò la villa di famiglia Renzi a Pontassieve, è stato scelto come prossimo amministratore delegato di Telecom Sparkle, formalmente controllata da Telecom Italia, da sempre azienda strategica per il governo italiano e l'alleato americano. Se non ci saranno intoppi, infatti, la nomina di Bacci, per un caso della vita fiorentino come Renzi, dovrebbe essere sancita nel consiglio di amministrazione di venerdì prossimo. E appunto si racconta un po' chi è Bacci. Bacci è la guida di un gruppo che fattura una settantina di milioni di euro nella pelletteria, nelle costruzioni e nella logistica. 2 anni fa ha rilevato anche una squadra di calcio di Lega Pro, la Lucchese. Di sicuro è legatissimo a Renzi e a Lotti, come ha raccontato Panorama in un articolo di Antonio Rossitto. Tra il 2004 e il 2005 la Coam SRL di Bacci ristrutturò la villa dove tuttora abita il premier con la sua famiglia. E sarà un caso, un anno dopo il costruttore venne nominato dall'amico Matteo alla guida di Florence Multimedia, finita poi sotto inchiesta della Corte dei Conti. Così racconta il Fatto Quotidiano. Oggi devo dire che devo fare un plauso ad Avvenire, perché a meno ho visto i giornali, non è che li leggo diciamo tutte le pagine, tutti i giornali, ma mi sembra il giornale che ha messo in maggiore evidenza il fatto che, essendo il 10 febbraio, si ricordano le vittime delle foibe. Il giorno del ricordo è istituito solo dal 2004 per legge, ma insomma gli eccidi, il conseguente esodo degli italiani di Istria, Fiume, Dalmazia. Ebbene, oggi Lucia Bellaspiga fa una pagina, dico almeno Avvenire l'ha messo in ampio risalto, a pagina 4, raccontando la storia di quella celebre foto, forse l'avete vista, di una bambina che teneva in mano una borsa e un ombrello. Sulla borsa c'era scritto esule, esule Giuliana. Sono proprio io la bimba con la valigia. Si racconta la storia di Egea Hafner, nata a Pola in Italia nel 41, 6 anni prima del grande esodo che nel 47 vide fuggire la quasi totalità dei 30.000 abitanti della città. È una foto simbolo dell'esodo giuliano dalmata che trova ora un nome e un cognome. E questa celeberrima immagine, dietro questa celeberrima immagine riaffiorano tinte fosche inaspettate. È la storia di questa donna che dice: sono io la donna della foto allora piccina, e racconta la tragedia delle foibe. Ma siamo in chiusura? Sì. La carta costa. Vorrei mettere un po' di articoli dedicati a Sanremo, ma questo su Repubblica è quelli che fanno le ferie all'Ariston. Spendono fino a 672 euro per l'abbonamento e fanno le ferie all'Ariston a Sanremo durante la settimana del festival. Ma chi se ne frega!